America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. I close my eyes, then I drift away into the magic night. I softly say. Roy Orbison in Dream, nei sogni, il grandissimo Roy Orbison, uno dei cantanti americani che amo di più, maestro fra l'altro di Bruce Springsteen, precede Simon e Garfunkel, insomma per me è un po' il simbolo delle canzoni americane che vi ho fatto ascoltare qui ad America 24, quelle vecchie, quelle nuove, visto che siamo all'ultima puntata del 2018, se per questo siamo all'ultima puntata di America 24, beh il connubio è perfetto, cosa si può sognare per l'anno nuovo? Quali saranno i sogni di Donald Trump, dei protagonisti della borsa, dell'economia, della finanza, dei grandi attori? E quali saranno i premi Oscar, gli Emmy Awards, i Tony Awards per lo spettacolo? Ecco, prima di partire coi pronostici, lasciatemi però ringraziare i colleghi della radio a Milano, tutti devo dire affettuosissimi, dall'amico Sebastiano a Guido, Alessandra, Simone, con cui faccio la trasmissione, colleghi di produzione, i tecnici del suono, sempre supportive, impeccabili, i miei producer da New York che negli anni hanno davvero reso questo programma possibile. All'inizio, pensate, nel 2010, gennaio 2010, Marco Chiappa, poi Valeria Coffaro, Andrea Barbuto, Emanuele Brignoli, adesso Marianna D'Alessio. Forse è normale chiudere un ciclo di 7 anni. To pass, to cast, to last, mi ripeto ogni tanto mia madre che ha 96 anni e ormai filosofa naturale. Tutto passa, tutto si rompe, tutto lascia, vero? Ma questo è un atteggiamento molto realista. Un messaggio che spero di avervi portato dall'America è che deve prevalere l'ottimismo, la voglia di fare, il get going, insomma, che conoscete bene, il sognare di Roy Orbison, perché alla fine, nonostante tutto, il sogno americano è ancora possibile. E dunque, che cosa avremo in questo 2018? Quale sarà il sogno di Donald Trump? Thank you. Thank you very much, everybody. Sorry to keep you waiting, complicated business. Beh, tanto sono sicuro che Donald Trump per il 2018 sogna di essere amato da tutti, di essere capito da tutti. Ecco, credo che questo sia un sogno più personale che americano, perché l'America è lo stato del diritto, della separazione dei poteri, e dunque a un certo punto del 2018 vedremo qualcosa di importante nel caso Russiagate. Per esempio, il procuratore Mueller tirerà le fila delle sue interviste con Michael Flynn del National Security Council. Succederà qualcosa, vedremo. Io non credo che ci sarà un impeachment, ma avremo sicuramente delle notizie. Cosa succederà per le riforme? Dopo la riforma fiscale, primo, unico, grande successo legislativo di Trump, credo che la Casa Bianca punterà sugli investimenti infrastrutturali. Ponti che crollano, treni che deragliano, come abbiamo visto l'altro giorno, aeroporti da terzo mondo non aiutano a fare l'America great again. E sul piano concreto Trump riconosce che la grandezza di un paese passa prima di tutto per l'economia, per la crescita. E la crescita è al 3%, l'occupazione è sotto il 4%, le cose vanno bene, la borsa ha macinato record su record nel 2017, anzi record secolari, si prepara a chiudere uno degli anni migliori della sua storia. Su questo principio, sull'importanza di crescere prima di applicare misure austere, beh, io credo che se lo riconoscesse anche la Germania, in nome di tutti i paesi dell'euro, non solo di se stessa, chissà, forse le cose anche da noi andrebbero meglio. جذور العلاقات بين الدول لا تتأثر بأي شكل من الأشكال. تاريخ مصر والسعودية دائما تقف مع بعضها في كل الظروف. Ecco, ci sarà il sogno di Donald Trump, ma anche quello del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, detto MBS, potrebbe diventare re in questo 2018 che arriva. Un sogno per un Medio Oriente dal volto diverso, credo che sia la novità più importante e promettente in Medio Oriente, e chissà che non succeda davvero qualcosa anche su quel fronte che ci riguarda molto da vicino, con tutti i problemi poi che si diramano con i terroristi dell'ISIS in Africa, sul fronte dell'immigrazione di massa. Vedremo, non azzardo pronostici sugli Oscar o sul resto, ma azzardo un pronostico di medio termine. A chi mi dice di aver dubbi sulla tenuta dell'America, che l'America è finita, io dico e rispondo: un paese che produce un imprenditore come Bill Gates e come lui altri 100, che rivoluziona il mondo, accumula la fortuna e la restituisce tutta questa sua fortuna, parliamo di 35 miliardi di dollari alla comunità globale, attenzione globale all'Africa, ai poveri del mondo, non solo all'America stessa. Ecco, questo è un paese che credo possa ancora insegnarci molto e che resterà ancorato ai valori dei padri fondatori per molti decenni a venire. Bene, l'anno volge al termine, una trasmissione volge al termine, ma i fatti del mondo passano e continueranno a passare per questa sponda atlantica, dove sorgono mille altri approfondimenti, idee, momenti di tensione forte, frontiere inesplorate. Scrivetemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, cala il sipario su America 24, ma non calerà mai il sipario sulla voglia di fare, sulla capacità di sognare, di guardare in avanti e dunque... Oggi, come feci solo in un'altra occasione in tutti questi anni durante la mia trasmissione, vi proporrò, beh, scusandomi subito per carità, mi scuso di nuovo per l'impudenza, ma vi proporrò una mia canzone. Come dissi mesi fa, siate indulgenti, questa è una mia canzone di molti, molti anni fa, l'ho scritto, ho fatto la musica e ve la faccio sentire per la prima volta. È il mio commiato da tutti voi, vi ringrazio per l'amicizia, per i Twitter, per avermi ascoltato. Pensate, il titolo è rimasto quello provvisorio, ma è in tema per questa trasmissione e per l'anno nuovo che arriva. Sogno, sognino. Sogno, sognino, sogno, sognetto, ti prego non mi stare stretto, ti prego non mi abbandonare, ti prego vienimi a cercare. Ti prego prendimi per mano e fammi andare un po' lontano, un po' lontano dappertutto, dove non ci sia del brutto. E se poi mi devi dire che è un po' difficile partire, ti prego sogno non scappare, ti prego lasciami sognare. Non ti vedevo stella stellina, com'è che sei così vicina? Sei forse qui col tuo calore per riscaldare il nostro amore. Ti prego stella, non m'abbagliare, che se no mi fai svegliare. Siamo qui a chiederlo in tanti, per poter andare avanti, andare verso i vecchi tempi, quando eravamo più contenti, quando eravamo tutti insieme. Però chissà se ci conviene. Sogno, sognino, sogno, sognetto, si è fatto tardi, vado a letto. Lo so che ci hai provato, che sono io che ho un po' sbagliato. Però se un giorno io ti cercassi e da qualche parte ti trovassi, ti prego sogno non scappare, dammi una chance per riprovare e ritrovare la mia mano e farmi andare un po' lontano, proprio come ai vecchi tempi, quando eravamo più contenti, proprio come ai vecchi tempi, la rida di baradana. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento su Twitter o Facebook dove potremo risentirci. E dunque, get going and goodbye.